RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Ore 9.33, ancora una buona domenica dalla redazione di GR Parlamento. La nostra programmazione prosegue con la rubrica Pagine in Frequenza. La Cina, 25 anni da piazza Tiananmen, è il tema della puntata odierna della rubrica curata da Alessandro Forlani. Ne parlano il professor Federico Masini, che insegna filologia cinese all'Università La Sapienza di Roma, la dottoressa Nicoletta Ferro, docente alla Bocconi a Milano, e Marco Madinelli, nuovo corrispondente RAI da Pechino. Buon ascolto, a più tardi. Began here about 2 hours ago, according to residents, according to bystanders here. They say that there have so far been dozens of casualties. Buongiorno, sono Alessandro Forlani. Quello che abbiamo sentito era James Miles, un cronista della BBC, che raccontava in diretta la repressione di piazza Tiananmen. Era la notte fra il 3 e il 4 giugno 1989, quindi 25 anni fa, e l'esercito cinese sgomberava con la forza le barricate che i protestatori avevano eretto in quella che è appunto la piazza più importante di Pechino, la piazza più importante della Cina anche dal punto di vista simbolico, piazza Tiananmen appunto. Di questo parleremo con un ospite che è stato testimone diretto di quei fatti e che poi è diventato un importante sinologo. Parleremo ovviamente anche della Cina di oggi, del suo primato economico nel mondo e dei rischi che noi occidentali corriamo se non accettiamo la sfida cinese. Vi ricordo il nostro indirizzo web www.radio.rai.it/grparlamento per riascoltare questa trasmissione in real audio, in podcast. E poi vi ricordo la nostra pagina Facebook per vedere appunto i titoli dei libri, la foto della trasmissione e per lasciare i vostri suggerimenti, le vostre critiche. Cercate Pagine in Frequenza. Allora, io saluto il professor Federico Masini. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. È docente di lingua e letteratura cinese all'Università Sapienza di Roma, autore di vari testi, ricordo Impariamo il cinese, uscito presso Oepli, poi Italia-Cina, uscito in questi giorni presso l'Asino d'Oro, ne parleremo tra poco. Saluto anche Marco Madinelli. Ciao Marco. Ciao Alessandro, buongiorno a te e agli spettatori. Allora, giornalista di Rai News 24, esperto di Asia, spesso, quasi sempre, anzi il nostro ospite quando parliamo di Cina. Oggi però lo posso presentare con qualche cosa in più, nel senso che sei corrispondente della RAI da Pechino, prenderai servizio proprio domenica 1 giugno. Ti ringrazio particolarmente, a parte fatti i complimenti, perché hai un aereo, come dire, 5 minuti e un jet partirà, però sei qui con noi lo stesso, grazie molto. Niente, grazie a voi. Allora, professor Masini, lei nell'89 era, se non sbaglio, addetto stampa dell'ambasciata italiana a Pechino. Lei ha già raccontato varie volte in interviste uscite sulla carta stampata, anche alla radio, la sua esperienza personale. Noi oggi le chiederemo soprattutto un giudizio complessivo sui fatti di piazza Tiananmen. Cominciamo quindi prima con un racconto e poi cerchiamo di fare un po' un'analisi, diciamo, dei fatti, di capire che cosa è successo. Questi ragazzi che cominciano la loro protesta il 15 di aprile in occasione dei funerali di Hu Jiaobang, questo famoso leader della rivoluzione, chi sono? Sono i classici, diciamo, contestatori anche del 68 italiano, operai, studenti, intellettuali? Erano soprattutto studenti dell'università, in un momento in cui dobbiamo collocarlo nel tempo e nello spazio, soprattutto di Pechino, in un periodo in cui le università stavano rinascendo dopo la chiusura del periodo della rivoluzione culturale, erano state riaperte alla fine degli anni 70, e quindi stiamo parlando della prima nuova generazione di studenti e quindi di intellettuali in un paese in cui gli intellettuali e gli studenti sono sempre stati, e lo sono ancora oggi, soprattutto dopo quei fatti, il fulcro tramite il quale, sul quale poi si impernia tutto lo sviluppo, prima di tutto economico, politico e sociale del paese. Quindi erano una nuova generazione quelli dell'89. Partecipando a quegli eventi fecero un pezzo di una pagina della storia cinese, e la storia della Cina non fu mai, non è stata più uguale dopo quel 4 giugno 1989. Ecco, Marco Marinelli, quello che chiedevano questi studenti sono appunto la libertà di stampa, la lotta alla corruzione. Chiedevano più socialismo e meno mercato, oppure appunto anche delle riforme economiche di tipo occidentale, oppure era invece il governo che portava avanti queste riforme occidentali? Ma diciamo che bisognerebbe fare una premessa: i fatti dell'89 si inseriscono nel primo decennio, diciamo è la fine del primo decennio di riforme, poco meno di un decennio, il ritorno al potere di Deng dopo la morte di Mao, e questi tentativi di riforme che all'inizio sono lenti, diciamo, nei primi anni, ma dall'88 in poi, con una liberalizzazione dei prezzi anche abbastanza selvaggia, porta soprattutto la classe urbana, quindi i ceti urbani, a soffrire di queste riforme. Diciamo che nei primi anni, proprio per un calcolo economico e politico, le riforme liberano risorse nell'agricoltura, per cui praticamente aumenta enormemente la produzione agricola, i contadini cominciano ad avere più soldi e fanno da traino al resto dell'economia sostanzialmente. Nell'estate 88, con la liberalizzazione dei prezzi, abbiamo un'inflazione spaventosa. Io ricordo, nell'88 è la prima volta che sono andato in Cina, nel giro di 3 mesi la bicicletta usata che noi compravamo per muoverci a Pechino, da luglio a settembre era aumentata del 25%, tenendo conto che allora 90 yuan di una bicicletta potevamo permettercela noi studenti occidentali. Quindi diciamo, in un certo senso era una protesta più di tipo socialista, insomma, come un po' il socialismo dal volto umano del 68 praghese. Sì, le etichette sono sempre un po' difficili, certo, perché poi la Cina, come vedremo, poi è un mondo a sé, sì. Però sicuramente, diciamo, alcune richieste andavano in un senso più democratico, come lo intendiamo noi, altre richieste invece andavano in un senso, se vogliamo, più socialista, per cui è difficile poi appunto applicare un'unica etichetta. Sicuramente la questione della libertà di stampa e della libertà di espressione, chiedevano, in realtà le prime richieste degli studenti erano molto politiche, perché il movimento inizia ricordando Hu Yaobang, che è stato segretario del Partito Comunista fino al gennaio dell'87 ed è stato defenestrato proprio perché nelle precedenti proteste studentesche dell'86 aveva avuto una, ed era stato etichettato come un liberalista borghese, aveva avuto un atteggiamento troppo morbido con gli studenti, non aveva voluto reprimere questo movimento che invece poi è stato comunque represso. E la prima richiesta degli studenti era politica, era la revisione del giudizio su Hu Yaobang e su quel movimento dell'86. Così, diciamo che più o meno in Cina fino all'89, dal muro della democrazia del 76-78, tutti i movimenti hanno chiesto la revisione politica del giudizio, quindi del partito, su quello che era stato il movimento. Il movimento dell'89 è stato etichettato come controrivoluzionario. La richiesta di chi ancora ricorda quel movimento, soprattutto delle madri dei 200 ragazzi identificati, quindi le madri di Piazza Tiananmen, quello che chiedono al partito è esattamente questo, la revisione del giudizio politico su quel movimento. Ecco, vedremo che sul numero dei morti appunto non ci sono dei dati precisi, minimo appunto sono 186-200, massimo c'è chi dice anche 2500. Professor Masini, sempre per raccontare i fatti però insieme anche analizzarli, si dice ci sia un momento chiave in questa protesta, che è quello della visita di Mikhail Gorbaciov, 16-17 di maggio. Gorbaciov si dice che suggerisca ai G8, no? A questi grandi capi del partito, che poi sono il vero governo cinese, di fare quello che sta facendo lui, cioè la glasnost, quindi trasparenza. Un po' quello che diciamo oggi, no? Oggi si direbbe mettere tutto su internet, insomma, e la perestroica, cioè nell'idea di Gorbaciov tornare ai soviet, quindi tutta democrazia diretta, per così dire, anche qui una, un'idea un po' grillina, per così dire. Quello che succede è che però invece due giorni dopo viene applicata la legge marziale a Pechino, arriva l'esercito e quindi si annuncia, diciamo, quello che poi sarà, c'è un ultimo tentativo appunto di mediazione, però poi si arriva alla repressione. Cosa può essere successo in questo scambio di idee, diciamo, tra Gorbaciov che poi crollerà, no? E invece i cinesi che poi invece affermeranno sempre di più il loro modello? La parola chiave, credo, per provare a rimmaginare quello che era la Cina di quegli anni, a beneficio soprattutto degli ascoltatori, immaginate una Cina in cui perfino le comunicazioni telefoniche erano difficili, non parliamo di internet, esistevano i telefax, non ancora i fax, quindi in un momento in cui effettivamente la comunicazione, l'informazione era assolutamente tradizionale, fatta per posta, fatta per tam tam, parole che passavano di bocca in bocca, ancora i manifesti, no? Che si usavano molto in Cina, un mondo diciamo indescrivibile, inimmaginabile per qualunque ragazzo con il quale quotidianamente condividiamo la passione per la Cina. Questo ci dà un po' la dimensione della situazione di quegli anni in cui appunto il muro di Berlino non era ancora caduto, sarebbe caduto pochi mesi dopo. Quindi il mondo era ancora diviso in Unione Sovietica da una parte e Cina, e in qualche modo gli Stati Uniti e l'Europa dall'altra. La parola fondamentale per gli studenti era libertà, una parola ancora declinata in modo particolare in Cina e da noi, e quindi gli studenti fondamentalmente nel primo movimento volevano la libertà, diciamo libertà politiche, ma libertà anche sociali, ma soprattutto politiche, e anche certamente una revisione storica dei fatti precedenti e di questa figura emblematica che era Hu Yaobang. In quel momento non dobbiamo dimenticare che il segretario del partito era Zhao Ziyang, che in qualche modo poi si inserì in questo movimento e fu responsabile della sua trasformazione nel momento in cui, e poi venne silurato, ricordiamo, esattamente nel momento in cui per la prima volta nella millenaria storia della Cina l'imperatore, cioè il segretario del partito, entrava in contatto diretto con le masse che manifestavano, e Zhao Ziyang con dietro senza occhiali Wen Jiabao salì su un pullman su piazza Tiananmen, e questo l'ho visto con i miei occhi, e in quel momento si ebbe la sensazione che la storia era cambiata o poteva cambiare, cioè l'imperatore, il segretario del partito del più grande paese e al mondo, incontrava la massa che protestava. Quindi è questo che illude un po' i manifestanti, che nonostante ci sia la legge marziale qualcosa possa cambiare? La legge marziale sarebbe stata imposta dopo, quell'evento in realtà però trasforma completamente tutti i fatti e li trasforma in una lotta di potere fra diverse fazioni all'interno del Partito Comunista Cinese. La fazione che ha la meglio è quella guidata da quello che poi diventerà diciamo, il leader degli anni successivi, cioè Li Peng, che sostenuto da Deng Xiaoping, questi sono fatti diciamo noti, impone la legge marziale e la protesta viene prima scoraggiata nei giorni precedenti, gli ultimi giorni di maggio, e poi nella notte fra il 3 e il 4 giugno sedata. Quindi c'è un doppio livello, in pratica questi manifestanti diventano un po' una cartina di tornasole per fare esplodere appunto questa contraddizione interna al sistema. Però ecco, professor Masini, all'interno del sistema appunto c'era una tentazione, diciamo, gorbaciovana? La parola libertà, come dicevo, è la chiave di interpretazione secondo me più semplice. Quella libertà che chiedevano gli studenti veniva interpretata da alcuni politici come libertà economica che stava nascendo in quel momento e anche in qualche modo libertà politica. E la declinazione, diciamo, l'equilibrio fra libertà politica e libertà economica in questa scala di valori doveva trovare un punto di equilibrio diverso. Secondo alcuni era più spostata sulla libertà anche politica, secondo altri, e questi sono stati i 25 anni della storia cinese successive, invece si è trattato di libertà economica. Io ricordo sia Gorbaciov che Shevardnadze, che vedemmo in quei giorni a Pechino, e proprio l'esperienza sovietica forse fu quella che convinse i cinesi dell'inopportunità del dialogo con gli studenti. Qualche maligno direbbe, dopo 25 anni forse non si erano sbagliati, nel senso che Gorbaciov e Shevardnadze nei colloqui, alcuni a cui abbiamo potuto anche assistere, quelli pubblici, diciamo, manifestavano ai cinesi la preoccupazione che eventi di Glasnost, di Tomindù cinese spinta, avrebbero portato anche a un disfacimento dei rapporti sociali e politici all'interno del tessuto sociale, con tutti i pericoli che questi avrebbero potuto comportare. Proprio questo, secondo me, ha convinto a maggior ragione Deng Xiaoping e la classe dirigente che bisognava stoppare, terminare, porre un freno a questo episodio, rispondere a questo episodio con un'apertura economica straordinaria che sarà raccolta nei mesi successivi dai paesi occidentali, primo fra tutti l'Italia, che mandò il primo ministro di un paese occidentale che torna in Cina, e Andreotti già i primi mesi del 1990. Infatti sarà abbastanza criticato. Poi torneremo sui rapporti Italia-Cina, sui rapporti Occidente-Cina nella seconda parte. Fermiamoci, Marco, su questa virtual history, per così dire, anche se in parte abbiamo già risposto. Che cosa poteva succedere se questo movimento avesse attecchito? Un bagno di sangue ancora peggiore, cioè un terrore, quindi un movimento tipo rivoluzione culturale al potere, come ha detto il professor Masini, il crollo di questa Cina come è crollata la Russia, e quindi poi chi lo sa, appunto, oligarchi, nazionalisti, non sappiamo che cosa, oppure invece qualche cosa più di positivo, appunto delle riforme non soltanto economiche ma anche democratiche. Beh, molto difficile, cioè quasi impossibile, insomma. Si può tentare di tirarne fuori qualcosa, nel senso che io non sono un esperto di Russia e di Unione Sovietica, però diciamo comincerei dalla risposta che ha dato uno dei leader dell'allora movimento studentesco, Wu Kai-si, che era uno studente dell'Università di Pechino, se non ricordo male, di origine uigura, che poi è scappato all'estero e tuttora rifugiato in esilio non può tornare in Cina. Lui ha detto: beh, se guardiamo dal punto di vista economico, quello che è la Cina adesso è molto di quello che noi chiedevamo. Io non so se sia solo, diciamo, un modo per indorare la pillola del fatto che appunto non può tornare in Cina, ma comunque questa potrebbe essere già una prima risposta. Cosa sarebbe successo se il movimento fosse attecchito? Il movimento non poteva attecchire proprio per il motivo che hai detto tu, perché i cinesi erano, e probabilmente soprattutto all'interno del partito sono ancora, preoccupatissimi dall'Yuan, il caos totale che è stato la rivoluzione culturale. Questo, almeno ad esempio, c'è un sinologo canadese, Robert Chick, che sostiene questo, e sostanzialmente mi trovo d'accordo, nel senso i motivi della protesta erano reali ed erano molteplici. Con la protesta degli studenti si era saldata anche dopo qualche settimana quella di molti gruppi operai e della gente di Pechino che voleva proteggere i propri ragazzi dalla repressione. Detto questo, è rimasto un movimento essenzialmente urbano di poche grandi città: Pechino, Shanghai, Wuhan, Chengdu se non ricordo male, manifestazioni anche a Canton, ma il tessuto sociale, la gran massa dei cinesi non avrebbe mai aderito a un rivolgimento che poteva ricordare nell'89 tutti ricordavano quello che avevano fatto nel 68, insomma, esatto, sì. Tutti ricordavano quello che era stata la rivoluzione culturale e nessuno voleva ripetere quell'esperienza. Detto questo, se ipotizziamo pure che avesse potuto attecchire e estendersi anche ad altre fasce più contadine, che ne so, la situazione economica cinese non era quella sovietica e soprattutto, anche se i grandi, diciamo, dignitari del partito hanno sempre avuto interessi economici, in quel periodo probabilmente sarebbe stato l'esercito che aveva i più grossi interessi economici, i capi dell'esercito, diciamo, i politici legati all'esercito, che avrebbero in qualche modo potuto diventare gli oligarchi della Cina. Ma come dire, proprio per le differenze sia di politica che di economia, temo che non avrebbe potuto, non si sarebbe avuta una situazione di stampo sovietico. Insomma, diciamo, certo, che gli unici esempi che potremmo avere vengono dalla storia imperiale. Alla caduta di una dinastia normalmente seguiva il disfacimento dell'impero e la creazione o la sostituzione con una nuova dinastia, se c'era stata, diciamo, una rivolta vittoriosa anche dal punto di vista militare, oppure in due o tre casi una dissoluzione con grandi regni macro-regionali, diciamo, che potevano durare un secolo, due secoli a seconda. Diciamo che né allora né adesso io prefiguro un eventuale sgretolamento della Cina. Certo, poi lì andiamo a livelli molto più ampi. Sicuramente il Tibet e il Xinjiang probabilmente sfuggirebbero immediatamente al controllo del governo centrale, però ribadisco, sono ipotesi, certo, molto ardite, ecco. Avrei, professor Masina, un'ultima domanda su Piazza Tiananmen, poi parleremo appunto dei rapporti Cina-Occidente, e riguarda quello che è diventato soltanto da noi però in Occidente il simbolo di Piazza Tiananmen, cioè quel ragazzo che con la mano ferma il carro armato, poi sale a parlare con il pilota del carro armato e sembra che appunto tutto si fermi, no? È una foto, noi non sappiamo chi è questa persona, è la persona più famosa del mondo in Occidente riguardo a questo fatto. In Cina fra l'altro non se ne parla, anche questo sarebbe un argomento da approfondire, cioè come mai appunto di questo episodio in Cina assolutamente non si parla. Questo momento in cui appunto un uomo ferma un carro armato è uno sprazzo come di fantasia, no? C'era quella poesia di Brecht che diceva in cui ci si rivolgeva appunto al generale dicendo, no, il tuo carro armato è molto efficiente però ha un difetto, ha bisogno di un pilota, e poi si diceva che anche i piloti sono molto efficienti, sono delle macchine da guerra però hanno un difetto, cioè che pensano. C'è stato in questo momento un difetto appunto di pensiero, c'è stato un momento di follia, oppure viceversa è stata una scelta necessaria, insomma? Ma quello scatto così famoso in realtà è la rappresentazione di qualche cosa che in quei giorni si vedeva sulle strade di Pechino. I carri armati erano entrati a Pechino già da tempo, già prima della notte del 3. Quelli che entrarono il 3 erano, diciamo, un altro gruppo. In realtà la città era costellata di carri armati che si erano spinti qua e là, che erano stati per lo più fermati dai loro stessi piloti o dalla popolazione che li circondava. Quindi è stato uno scatto fortuito quello di rappresentare il, diciamo, quel cinese davanti al carro armato. Però ce ne sono stati altri, insomma. Però ce n'erano, ne abbiamo visti tanti altri. C'erano dei carri armati che giravano per la città e che in alcuni casi si fermavano e quindi poi venivano accerchiati da persone e stavano lì fermi in attesa che la situazione si trasformasse. Io tornerei un attimo indietro nel momento in cui URKC dice quello che abbiamo visto in Cina, quello che vediamo oggi nella Cina è forse parte di quello che noi volevamo. In realtà in quel momento gli studenti avevano delle idee sulla libertà, la popolazione voleva uscire dallo stato di assoluta inedia in cui i decenni precedenti era stata confinata, cioè c'era un problema proprio di sopravvivenza fisica. È una dimensione difficile per noi da immaginare, ma è il motivo scatenante di Ceausescu in Romania, cioè la fame vera è quella che attanaglia e che spinge le masse, ha spinto le masse in Cina. Sono motivi che era un prodotto della rivoluzione culturale, che era stato un prodotto dei decenni precedenti per una serie di motivi politici, diciamo anche alcuni eventi catastrofi naturali, ma sicuramente grandi eventi politici. In quei primi anni, gli ultimi anni degli anni 70, i primissimi anni 80, la gente aveva iniziato per la prima volta a mangiare, certamente biciclette, vasche, catini, stracci per pulire, ma soprattutto ad avere da mangiare. Quello che ricordo di più di quegli anni era la possibilità di iniziare a mangiare. Io arrivai in Cina nei primissimi anni 80 e in quei primissimi anni 80 era veramente difficile andare a dormire la sera con lo stomaco pieno, ed eravamo studenti presso un'università cinese. E con il passare degli anni la sensazione di veder comparire qualche pera o qualche mela oltre al riso e la verza era la sensazione del benessere che arrivava. Sto parlando della capitale, immaginatevi la campagna. Quindi questo movimento era un movimento che aspirava a una libertà. Libertà alla sopravvivenza. Libertà alla sopravvivenza è libertà economica, innanzitutto, è quella libertà che ti permette di rispondere ai bisogni. Sono i bisogni materiali, secondo una categorizzazione ben nota ormai della politica italiana, se ne è parlato in più di un'occasione, differenza fra bisogni ed esigenze. I bisogni sono la sopravvivenza materiale, una volta che deve essere garantita a tutti gli esseri umani. Una volta che i bisogni saranno stati soddisfatti, bisognerà cominciare a pensare alle esigenze, che sono tipiche della realtà individuale umana. È una differenziazione, diciamo, che ho sentito in più di un dibattito politico, che peraltro troviamo per la prima volta nel 1972 in un libro di Massimo Fagioli, Istinto di morte e conoscenza, in cui si distinguono bisogni ed esigenze. Gli cinesi hanno lavorato per la sopravvivenza e quindi per la risoluzione dei bisogni, e se vediamo i fatti di Tiananmen in una dimensione storica, diciamo che questi ultimi 25 anni sono il periodo di maggiore stabilità sociale e politica della Cina negli ultimi 200 e passa anni, cioè dall'inizio del 1800 a oggi. Questi 25 anni da Tiananmen a oggi, senza voler negare evidentemente quello che è stato Tiananmen, sono il periodo più lungo di sviluppo, innanzitutto economico, sociale e in qualche modo direi anche politico, della Repubblica Popolare Cinese. Allora, grazie professor Masini. Tra breve parleremo nello specifico del suo ultimo libro, che viene appunto a presentare qui da noi. ¡Gracias! Allora, siamo a Pagina in Frequenza, stiamo parlando dei 25 anni di Piazza Tiananmen e poi della Cina di oggi. Queste erano le Gen Verde, il gruppo musicale femminile del movimento dei focolari, e il canto tradizionale cinese che interpretavano dice: come il fiore deve aspettare la pioggia per fiorire, così anche l'uomo deve sempre avere pazienza. Siamo con il collega Marco Madinelli, corrispondente della RAI da Pechino, con il professor Federico Masini, sinologo. È un po' il segreto dei cinesi fare le cose a tempo debito, e ora che tempo è per la Cina? Professor Masini. Sicuramente sì, il sapere aspettare è una legge cinese che effettivamente è molto praticata. È un tempo, la Cina in questa sua crescita e trasformazione si trova ancora una volta di fronte a una serie di scelte su come combinare un enorme sviluppo economico con un moderato inizio di libertà sociali e politiche. La Cina di oggi è incredibilmente molto più libera nel nostro senso rispetto a quella di 25 anni fa. Alcune cose però evidentemente per noi possono essere inaccettabili, però io sono convinto che la strada è segnata, cioè la Cina ha necessità di continuare a svilupparsi, al tempo stesso riflettendo su alcuni eccessi del proprio sviluppo, e lo sta facendo a modo suo, ma lo sta facendo, e traccerà una storia anche per lo suo sviluppo politico autonoma e originale. Abbiamo dimostrato negli anni che il nostro modello non è esportabile, la storia dell'Iraq ha dimostrato che non possiamo esportare, o della Libia non è sufficiente togliere un regime e sostituirlo con il nostro sistema perché quel paese cambi. Noi dobbiamo da parte nostra continuare ad accompagnare con rapporti e con contatti intensi quel paese a seguire la propria strada di sviluppo economico, che comporta costantemente anche lo sviluppo di una serie di libertà in grado di rispondere alle esigenze sempre maggiori della popolazione. Abbiamo detto, professor Masini, che lei è qui per presentare il suo ultimo libro, Italia e Cina, edizioni L'Asino d'Oro. In realtà è un libro del 1996 scritto da lei, professore, con Giuliano Bertuccioli, che è stato diplomatico italiano in Asia e docente di lingua cinese alla Sapienza, proprio come lei ora. E questo testo adesso viene ripubblicato però con un aggiornamento, soprattutto dell'ultimo capitolo. È un libro che parla dei rapporti tra Cina e Impero Romano prima, e poi Italia, diciamo, medievale moderna, da Marco Polo fino a Matteo Ricci, fino al Novecento. È un libro molto interessante, suggeriamo appunto la lettura agli ascoltatori, perché ovviamente come dire, l'argomento è complesso e viene veramente analizzato nei minimi termini. In generale, professore, più scontro, come è stato appunto, non so, al tempo dei boxer in cui gli occidentali erano visti come diavoli, oppure più incontro e quindi compenetrazione tra Cina e Occidente? Ma è un libro che dovrebbero conoscere, diciamo, tutti gli italiani che hanno desiderio di sviluppare rapporti con la Cina, in particolare il nostro mondo politico. È un libro in cui suggeriamo al presidente Renzi, che sta per partire per la Cina. È un libro in cui lo manderemo al suo addetto stampa. Ottima idea. È un libro in cui si dimostra che i rapporti fra la Cina e l'Occidente sono stati per quasi 2000 anni i rapporti fra gli abitanti della penisola italiana e la Cina. Cioè l'Italia ha un primato assoluto nei rapporti con la Cina che nessun altro paese occidentale al mondo può vantare. Avevamo rapporti, diciamo, ideali con, all'epoca degli antichi romani, pensate che Plinio lamentava che le donne romane spendevano troppi soldi per comprare la seta cinese, cioè c'era un disavanzo dell'acquisto della seta cinese a Roma oltre 2000 anni fa, e via di seguito Marco Polo, seguendo le orme di Cristoforo Colombo, ha scoperto che la terra era tonda. E di seguito i gesuiti, in epoca tra il 1600 e il 1700, erano tutti italiani, cioè l'Italia ha avuto un rapporto diretto con quel paese ed è stato il punto di contatto fra l'Occidente e la Cina, scontro o incontro. La Cina è molto lontana dal nostro mondo, è stato soprattutto per quanto riguarda l'Italia un incontro, scontri diretti fra l'Italia e la Cina non ci sono mai stati, c'è stato un tentativo alla fine dell'Ottocento che è finito in modo fallimentare, è stata l'unica occasione in cui la Cina ha dovuto, ha vinto con una potenza occidentale prima del Novecento, è stato con l'Italia. In qualche modo l'Italia non ha mai avuto ruggini politiche o militari con la Cina, e proprio per questo gli italiani sono ben visti in Cina. Forse questo noi lo dovremmo ricordare nel momento in cui vogliamo, come si diceva prima, continuare a mantenere intensi rapporti con quel paese e con le persone che vivono in quel paese, accompagnando questo loro straordinario sviluppo. Allora, facciamo ancora una pausa e poi tra breve parliamo appunto un po' più nello specifico di questo sviluppo sostenibile sul piano sia economico, ambientale che anche sociale del gigante cinese. Siamo a Pagina in Frequenza, stiamo parlando della Cina, 25 anni dei fatti di Piazza Tiananmen, con noi il professor Federico Masini, curatore del libro Italia-Cina, racconto e analisi dell'incontro millenario tra impero celeste e occidente. In questa ultima parte parliamo della Cina di oggi, appunto, con riferimento soprattutto al tema delle risorse energetiche e ambientali e poi dei problemi sociali. Quanto consuma la Cina, quanto può andare avanti a consumare, quanto dovrà poi concedere in termini di benessere e poi quindi anche consumismo, diritti dei lavoratori ai suoi concittadini, appunto per non rischiare proprio un'altra piazza Tiananmen. Salutiamo al telefono la dottoressa Nicoletta Ferro. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a voi. Ricercatrice per una fondazione che fa capo all'Università Bocconi di Milano, lei si occupa appunto di ambiente e energia da vari anni. Ricordo il suo blog, Shanghai e altri animali, e poi ricordo che lei adesso è appunto curatrice, sempre per l'Asino d'Oro, del libro Sviluppo Sostenibile e Cina, le sfide sociali e ambientali del XXI secolo. Allora, partiamo con qualche dato paragonato, diciamo, con noi italiani e con gli Stati Uniti sul consumo di energia e sul consumo di ambiente, per così dire, in Cina. È vero che sono così inquinatori i cinesi? Ma Ma direi che i dati che ci forniscono, sia fonti cinesi che fonti internazionali, confermano che negli ultimi decenni c'è stato un aumento esponenziale dei consumi pro capite, che però si mantengono ancora a livelli inferiori rispetto a quelli degli Stati Uniti. I problemi sono in prospettiva futura, con un aumento della popolazione urbana che entro il 2035 si pensa arriverà al 70% della popolazione rispetto al totale dei cinesi, quindi il 70% dei cinesi abiteranno in zone urbane o semiurbane. È prevedibile che gli aumenti nel consumo energetico siano comunque arrivino e superino i livelli americani. Ecco, però in questo caso appunto ci sarebbe, per così dire, uno scompenso proprio sul pianeta in termini appunto di consumo di energia e di inquinamento, perché sappiamo che oggi ad esempio gli Stati Uniti e appunto l'Europa hanno consumato molto e consumano molto. Se 1,5 miliardi di cinesi consumassero altrettanto, cosa succederebbe? È difficile fare delle previsioni. Certo, la situazione a livello ambientale per quanto riguarda la Cina già adesso presenta delle situazioni di limite di vivibilità, di conseguenza Pechino è perfettamente consapevole che un modello di sviluppo di questo tipo, energy intensive, non è più sostenibile e cerca quindi di sviluppare energie alternative, fonti rinnovabili, mantenendo però una dipendenza dal carbone che rappresenta ancora per il 70% il fabbisogno. Ecco, ricordo che in Europa è il 30%, anche negli Stati Uniti. Ecco. E il carbone è particolarmente inquinante. Esatto, su livelli che si aggirano intorno al 70%. Quindi, insomma, la situazione è un po' confusa perché da un lato ci sono investimenti fortissimi nelle energie rinnovabili, solare, eolico, idroelettrico, dall'altro però continua questa dipendenza dal carbone, che è destinata a continuare ancora nei prossimi almeno 15 anni, e continuano gli investimenti in questo tipo di energia, contemporaneamente poi la dismissione di quelli che sono gli stabilimenti più ritenuti più inquinanti. Quindi c'è un passo in avanti e un passo indietro, no? Da parte di Pechino, anche perché comunque affrontare una situazione del genere su un'area così vasta, che presenta poi delle differenze a livello anche geografico notevolissime, non è facile. Ecco, per quanto riguarda invece la sostenibilità sociale, per così dire, sappiamo che ci sono dei turni di lavoro molto lunghi, delle condizioni di lavoro anche molto dure, un po' come quelle che abbiamo avuto noi magari in Italia durante il boom economico, no? Del quale poi oggi paghiamo le conseguenze, vedi il caso Eternit, vedi il caso Ilva. Sappiamo che i sindacati in Cina sono molto diversi rispetto a come sono in Europa. Ecco, qui ci sarà appunto, è sostenibile questa situazione così, oppure ci dovranno essere delle concessioni? E quindi poi che cosa succederà? Cioè, ci sarà una diminuzione, diciamo, della crescita economica cinese? Ma già la diminuzione è evidente. Dal punto di vista delle tutele sociali ci sono stati fatti negli ultimi anni dei passi in avanti, con una regolamentazione a livello legale sicuramente più favorevole nei confronti dei lavoratori che sono sempre più consapevoli dei propri diritti e sempre più si organizzano, perché non passa settimana senza che arrivino comunque delle notizie da stabilimenti e zone industriali cinesi di comunque scioperi o comunque proteste da parte dei lavoratori. E quindi, insomma, il futuro anche da questo punto di vista necessita da parte di Pechino una gestione molto accurata dell'evoluzione anche in campo sociale, perché sia le questioni ambientali che quelle sociali poi trovano nelle proteste, in quelle che vengono definiti gli incidenti di massa da parte delle autorità cinesi, un modo di espressione che fa paura comunque, perché si è capito che intorno a questioni ambientali, soprattutto relative alla costruzione di stabilimenti inquinanti in zone locali, vi è la possibilità che si creino, no, delle piattaforme di reazione anche da parte della popolazione, che per il momento sono locali. Questo è quello che succede, quindi sono relative proprio a quel determinato stabilimento in quella determinata zona. C'è una... Non è detto che non si... Prego. Ma che dico, che non è detto che non possano comunque evolversi in qualcosa di più serio a livello nazionale, sì. Quindi compattarsi in maniera più decisa. Ecco, sul rapporto appunto nazionale locale c'è una domanda di Marco Marinelli, prego. Buongiorno. Buongiorno, volevo sapere, vedo nel libro, mi sembra una parte abbastanza importante, il rapporto, l'influenza, diciamo, dei movimenti sociali locali dal basso, quindi sia rispetto alle aziende che alla come dire, alla coscienza ambientale, e che peso hanno e come si stanno formando, diciamo, ovviamente il potere tende a impedire che questi movimenti locali abbiano un ambito, un riscontro nazionale, ma a livello locale sono efficaci? Ma a livello locale dipende da che temi trattano. Dal punto di vista ambientale, l'associazionismo, il terzo settore è molto ramificato e ottiene dei risultati. Dal punto di vista dei diritti sociali invece c'è ancora un po' il controllo da parte del governo, che comunque ha un atteggiamento ambivalente nei confronti dell'associazionismo, delle NGOs, del terzo settore. Ne ha bisogno perché si è reso conto di non poter affrontare determinate problematiche proprio a livello locale senza l'aiuto e il filtro del terzo settore, ma dall'altro lo teme, quindi c'è un continuo atteggiamento di rilascio e di controllo nei confronti di questo terzo settore, che comunque quantomeno dal punto di vista ambientale e a livello locale ha un effetto importante ed è una voce molto importante nel panorama cinese, destinata sicuramente ad aumentare con il tempo. Allora, noi la ringraziamo, dottoressa Nicoletta Ferro, ricordiamo il libro che lei ha curato, Sviluppo Sostenibile e Cina, edizioni L'Asino d'Oro. Con noi in studio il professor Federico Masini, ricordiamo il suo libro Italia e Cina, sempre edizioni L'Asino d'Oro. Abbiamo detto appunto che Piazza Tiananmen è stata una svolta, lei diceva all'inizio è il punto di partenza di quello che vediamo ora. Parlavamo adesso con la dottoressa Ferro appunto di movimenti di protesta, di cambiamento. La Cina è un po' sempre stata segnata, no? La Cina dalla rivoluzione in poi, da questi movimenti, dai Cento Fiori, la rivoluzione culturale, Piazza Tiananmen, poi abbiamo avuto nel 99 quello del Falungun, no? Movimento religioso. E anche qui, che cosa, lei ha parlato prima di un periodo di pace che è stato quello più lungo appunto finora, no? Verso che cosa andiamo? Ci saranno altri movimenti interni? Ci potrà essere, diciamo, un'esplosione della Cina come è stato per la Russia, appunto, oppure no? Difficilissimo fare pronostici sulla Cina. Chi li ha fatti si è stato smentito. Ricordo tanti corrispondenti, ricordo una lunga conversazione con Tiziano Terzani a Pechino, che venne in quei giorni, e su che cosa sarebbe successo in quei dopo. In realtà non eravamo riusciti a immaginarlo. Io credo che la Cina sia fatta da tante cose. Innanzitutto ricordarsi che la Cina è più grande dell'Europa e ha una popolazione, diciamo, di tre volte l'Europa. Quindi è una dimensione, parlare di Cina è come parlare di Europa, e quindi non sappiamo se parlare di Lampedusa oppure di Helsinki, Oslo, certo, o di Oslo. E, però evidentemente ha una sua compattezza interna molto maggiore probabilmente dell'Europa. Esistono tante realtà diverse nella Cina. Quello che probabilmente per noi è strano è il fatto che la realtà lì possa cambiare con una rapidità molto maggiore, per il bene del sistema politico che ha, cioè di un sistema politico decisionista. Mi veniva in mente il problema del trasporto urbano oppure del problema dell'inquinamento. Il trasporto urbano a Pechino a un certo punto stava scoppiando, si decise di costruire le linee della metropolitana, e in pochissimi anni hanno costruito 12 linee della metropolitana, risolvendo in parte il problema del trasporto urbano. È evidente che questo ha dei costi sociali sulle libertà personali per noi inimmaginabili, cioè dove far passare le linee e abbattere, certo, quello che noi c'è stiamo in mezzo. Parlando ancora, diciamo, adesso a Roma, no, dei quartieri abbattuti da Mussolini, perché noi abbiamo una dimensione dell'individualità che è tutelata dal nostro sistema, per nostra fortuna, da un certo punto di vista. Viceversa, lì è sempre una dimensione collettiva, è il rapporto fra il singolo e la collettività che cambia. Noi siamo un insieme di singoli che danno luogo a una collettività. Lì c'è una collettività che è fatta da singoli. L'interesse collettivo viene sempre prima dell'interesse individuale. Da noi è esattamente il contrario. Fino a degli, diciamo, ai casi più estremi, limiti della nostra giurisprudenza, a volte addirittura ridicoli. Quindi in questo alcuni problemi vengono governati meglio nel momento in cui si decide di risolvere il problema dell'inquinamento. È possibile immaginare che da domani non si faccia più qualche cosa, se questo fa bene alla collettività, cosa che da noi sarebbe impossibile fare. Quindi, insomma, dobbiamo guardare in modo un po' diverso anche a queste proteste. L'aspetto interessante della Cina è quello di provare a vederla e a studiarla per quello che è, senza andare necessariamente a cercare in Cina dei paradigmi che noi conosciamo. Dobbiamo abituarci alla possibilità che esista una realtà diversa dalla nostra. Esiste un paese in cui non ci sono chiese religiose, in cui la religione non esiste, in cui non c'è un controllo sulla politica da parte del Vaticano come accade in Italia da decenni. Ecco, immaginare che esistono dei paesi diversi e che quindi le scelte per la soluzione dei problemi possono essere diverse dalle nostre. Non dico che siano migliori necessariamente, ma sono diverse. Ecco, abituarsi alla diversità per studiarla e conoscerla, e quindi avere un nuovo corrispondente della RAI da Pechino per noi sarà un motivo di grande orgoglio, perché anche potremo, perché conosce bene il cinese, esattamente, conosce bene la Cina, quindi ha una mentalità e nuova, quindi è una novità straordinaria del nostro paese, è una première, come direbbero, che ci permetterà di conoscere quel paese e di farlo conoscere sempre meglio. E senta, sempre a proposito, professor Masini, di futuro, stavolta futuro del rapporto Cina, Cina resto del mondo, diciamo. Noi siamo stati abituati nella storia, storia che noi leggiamo sui libri di testo, che poi è la storia, diciamo, dell'Occidente, allo scontro tra le potenze, no? Una volta che all'inizio del Novecento Germania e Francia erano le due più grandi potenze, si sono scontrate. E poi è stato per Germania e Inghilterra nella Seconda Guerra Mondiale, poi è stato per Stati Uniti e Russia nella Guerra Fredda. Ora che cosa succederà? Adesso lo scontro è tra Cina e Stati Uniti, sarà uno scontro violento oppure si manterrà sul piano, diciamo, dell'economia, dello spionaggio? Ecco, qui mi azzardo a fare una previsione abbastanza convincente, convinto, sicuramente no, non ci sarà nessun tipo. La Cina non è un paese espansionista, si è già espanso abbastanza, diciamo così, ha dei confini già sufficientemente ampi, non ha una politica espansionista. Le scaramucce nel Mar Cinese meridionale attuale vanno lette in altro modo, non c'è una politica espansionistica in Cina, la Cina non ha mai invaso paesi limitrofi negli ultimi millenni, diciamo così, quindi non è immaginabile quello. E questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che quasi l'80% del debito americano è nelle mani dei cinesi, quindi gli americani sarebbero disposti a fare la guerra a chiunque, ma non a chi possiede il loro debito sovrano, che se domani dovesse essere venduto potrebbe mandare nel tracollo l'economia americana. Lo scontro della Cina è con il resto del mondo in termini economici, cioè c'è una necessità per la Cina di continuare a espandersi, e quindi deve trovare dei modi perché la sua crescita economica sia compatibile con la crescita e lo sviluppo degli altri paesi. E quindi è evidente che nel momento in cui la crescita della Cina possa andasse troppo a detrimento dello sviluppo europeo, quello sarebbe un problema. Quindi la Cina sa perfettamente che deve mantenere buoni rapporti, anche perché le merci che produce devono essere vendute. Dobbiamo fuori comprarle dalla Cina. Noi, quindi dobbiamo avere almeno i soldi per comprarle. Esattamente. Marco Madinelli, allora, abbiamo letto, il tuo aereo parte tra poco, dovrai da adesso raccontare agli italiani che cos'è la Cina, come raccogliere la sfida cinese, appunto, come diceva adesso il professore. Beh, sono totalmente d'accordo su quello che diceva. La Cina, diciamo, è un grande puzzle e una grande opportunità. Di fatto quasi chiunque può dire qualsiasi cosa, diciamo quasi, difficilmente può essere smentito categoricamente, nel senso, la Cina è un contenitore di tantissime cose. Purtroppo è vero, purtroppo sulla stampa occidentale e italiana in particolare risaltano sempre gli stessi argomenti, lo smog di Pechino e tutta una serie di questioni. Ampliare l'orizzonte, noi siamo qui a ricordare i 25 anni della Tiananmen, come è giusto. Detto questo, la Cina è, come diceva prima il professore, è completamente cambiata. Della Cina di Tiananmen non è rimasto praticamente niente. Ricordiamo che dall'89 in poi noi abbiamo cambiato qualche governo, ma di fatto i leader sono praticamente più o meno gli stessi. I cinesi hanno già cambiato 3 generazioni di leader. Non che la politica cinese funzioni meglio di quella italiana, però è giusto per dare un'idea del... Per cui la Cina dipende da come la guardiamo, e ovviamente come la guardiamo dipende A, da quello che vogliamo dire da un certo punto di vista, B, anche dagli strumenti con cui la guardiamo e la analizziamo. E ovviamente è un paese pieno di contraddizioni, e come dire, raccontare le contraddizioni alla radio si riesce ancora, alla televisione è molto più difficile, e quindi sarà una sfida enorme. E però io credo che il pubblico più avvertito già conosca più della Cina di quanto i mezzi di informazione gli diano da pensare e da conoscere, perché poi chi si interessa di Cina si interessa in proprio, diciamo, e purtroppo da questo punto di vista sia l'editoria inteso giornalismo sia l'editoria intesa libri in Italia non aiuta molto. C'è stato un boom alla fine, diciamo fra il 2008 e il 2010, adesso c'è stato un forte rallentamento sia di traduzioni che di pubblicazioni in italiano. In questo l'Asino d'Oro è un po' un'eccezione. Sì. Però comunque ci sono tanti libri sulla storia della Cina, sì, insomma, no? Diciamo che, ecco, però fermarsi alla storia cinese è importantissima, è importante studiarla per capire alcuni meccanismi che regolano, come dire, il pensiero cinese e l'approccio cinese alla gestione delle cose. Come diceva il professore, i cinesi, soprattutto la classe dirigente, sono molto pragmatici. Chiedevi prima, ci sarà lo scontro? Io credo che se lo scontro ci sarà solo perché lo cercheranno gli Stati Uniti. Detto questo, mi auguro di no. I cinesi stanno lavorando almeno da una quindicina d'anni a studiare come Inghilterra e Stati Uniti si sono passati il bastone del comando della leadership mondiale, e si augurano e stanno lavorando affinché succeda la stessa cosa fra Cina e Stati Uniti, con una Cina prima economia senza del mondo, senza la rivoluzione americana, però non parliamo del Settecento, parliamo del Novecento, diciamo. Sì. Gli Stati Uniti, tra l'altro, la grande differenza, gli Stati Uniti ci hanno messo circa più di 60 anni a prendere la leadership politica del mondo, e visto che sono diventati la prima economia già dal 1878 più o meno, i cinesi, anche per un senso di rivalsa rispetto a quello che è stata la loro storia nell'Ottocento, non aspetteranno altrettanto. E speriamo non aspettino appunto 2 guerre mondiali come hanno fatto gli Stati Uniti. Sicuramente no, non è il loro obiettivo. Certo. Abbiamo ancora un minuto, professor Masini, per una domanda un po' più leggera che ci viene dalla regia. Il nostro tecnico Alessandro Pazienza aveva quella curiosità che abbiamo un po' tutti noi italiani sui cinesi in Italia, sul fatto che non si vedano mai funerali di cinesi, quindi c'è questo, questo luogo comune per cui i cinesi poi si passano i documenti che nascondono appunto le persone morte. Senza escludere la possibilità di atti illeciti di questo genere, in generale è stato fatto uno studio specifico per rispondere a questa domanda e la risposta è che il tasso di mortalità dei cinesi divisi per la loro età anagrafica è uguale a quello degli italiani. In realtà i cinesi tendono a essere giovani per essere qui in Italia, è una, spesso un'immigrazione che non vuole rimanere stanziale, sono giovani e nel momento in cui si ammalano o perdono, diciamo, sanno, sentono la fine vicina, tendono a tornare nel loro paese perché, essendo atei, l'unica forma così di superstizione è quella del mantenimento della propria specie e quindi per mantenere la propria famiglia le ceneri, perché i cinesi praticano la cremazione per lo più, devono essere, rimanere vicine al nucleo familiare e quindi una morte all'estero farebbe sì che le ceneri potrebbero rimanere all'estero e quindi questo interrompere la, lo sviluppo della, della famiglia. Quindi secondo me sono così fole tutte locali che in realtà non hanno fondamento. Allora, non abbiamo paura che ci sia una guerra, non abbiamo paura dei cinesi che ci invadono con le pantofole, non abbiamo neanche paura che ci siano degli zombie cinesi che circolano per le nostre città. Ci fermiamo qui, come detto in regia Stefano Angelone, alla parte tecnica Alessandro Pazienza. Allora, grazie al professor Federico Masini, ricordiamo il suo ultimo libro Italia-Cina, edizioni L'Asino d'Oro, e ringrazio anche Giovanni Senatore, addetto stampa dell'Asino d'Oro, che è qui anche lui in regia. Grazie professor Masini. Grazie a voi. Marco, allora veramente grazie mille, ancora complimenti e buon viaggio. Grazie a te e la prossima volta da Pechino. Un saluto da Alessandro Forlani.